Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ed eccoci allora alle 7:16 minuti, cari italiani, siamo qua a leggere i giornali con voi e vi ricordo che oggi parleremo della situazione politica attuale, situazione difficile, avremo ospiti politici, sarà con noi Giancarlo Galan del Popolo della Libertà, sarà con noi Nicola Morra, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, sarà con noi il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. E ci vogliamo chiedere e vogliamo sapere anche da voi, cari italiani, allora cosa succede questa settimana, domani soprattutto ci sarà la fiducia, sono lì tutti col pallottoliere al Senato a capire ci saranno i voti o no per tenere in piedi il governo Letta, lo scopriremo più avanti, intanto andiamo a scoprire anche cosa ci propongono i quotidiani che trovate in edicola. Questo martedì 1 ottobre. I titoli intanto dei quotidiani, il Sole 24 Ore apre su spread e borsa, sale la tensione, dunque la situazione politica incerta vissuta dal punto di vista delle borse. Per il Corriere della Sera Berlusconi attacca, scontro con Napolitano, duro faccia a faccia tra il Cavaliere e Alfano, vicini alla rottura nella notte. Repubblica apre invece con un'intervista di 4 pagine di Eugenio Scalfari al Papa, il Papa così cambierò la Chiesa. C'è aria di premio nella nostra rassegna stampa. Berlusconi, l'ira di Napolitano, così titola il Messaggero. La Stampa, crisi, è l'ora dei veleni. Libero, il PD stoppa il Letta bis, così la vede Libero, mentre il giornale, il titolo di prima pagina è scatta la tassa Letta, l'aumento dell'IVA è definito così dal giornale, la tassa Letta. Per il Fatto Quotidiano Berlusconi spara, Napolitano telefonò per cambiare la sentenza CIR e l'intercettazione finita ieri in onda a Piazza Pulita. L'Unità, Berlusconi fa il pazzo per votare. Il Manifesto invece cambia decisamente dalla politica e mette questa foto che trovate per la verità in prima pagina su tanti giornali, e vale a dire le vittime, 13 migranti, profughi, eritrei e somali che ieri hanno tentato di sbarcare con una ovviamente imbarcazione di fortuna, è finita in tragedia, 13 di loro sono morti annegati a pochi metri dalla spiaggia di Scicli, il titolo è posto di blocco, ma è soprattutto la foto molto drammatica, molto impietosa. Ci sono 3 di questi cadaveri sulla spiaggia di Scicli coperti da un telo. Vedremo però quella più avanti, la notizia di cronaca certamente è drammatica e forse la notizia di cronaca principale per i quotidiani che la pubblicano oggi, ma udite udite, è tornato, avete sentito anche la nostra Raffaella Calandra, la controcopertina del giornale radio, è tornato a prepotenza la vicenda Scajola con la casa a sua insaputa, anche se è vero, la frase non l'ha mai detta, non ho mai detto ho comprato una casa a mia insaputa, è diventato però da quel momento un modo di dire. E allora udite udite, perché cari ascoltatori, tutti i giornali pubblicano i verbali dell'interrogatorio davanti al pubblico ministero. L'interrogatorio in aula è Repubblica, soprattutto a pagina 21, che racconta Scajola e la casa sua insaputa. Eccolo qua, ormai è diventato un tormentone. Mai trattato con chi la vendeva al vero prezzo, l'ho scoperto dopo. Il vero prezzo l'ho scoperto dopo. L'interrogatorio in aula racconta Maria Elena Vincenzi, si è seduto al banco degli imputati, si è schiarito la voce, ha detto di non avere mai usato le parole a mia insaputa per la vicenda della casa del Colosseo. È iniziata così la testimonianza di Claudio Scajola ed eccolo qui, parte da 2 cardinali. Balducci, Angelo Balducci, era noto per essere persona molto vicina al Vaticano, lo conobbi nel 2000 quando Rutelli lo nominò commissario per il Giubileo. Ed ecco allora, nel 2004 Balducci propose al ministro 2 immobili, uno in via del Corso, ma era fuori budget, fa sapere Scajola, e uno in via del Fagutale, non era un attico ma un mezzanino di 9 vani, perfetto. Delle sorelle Papa, non ho mai parlato del prezzo con le sorelle Papa. E poi racconta tutta la vicenda. Concordammo il prezzo. Il rogito avvenne il 7 luglio del 2004 in una sala riunione del ministero in via della Mercedes. Entrai un momento, salutai i presenti, cioè le sorelle Papa, il direttore della Banca di Napoli di Montecitorio. Me ne andai. Tornai alla lettura dell'atto, firmai, consegnai i miei assegni. Le proprietarie mi diedero le chiavi e mi pare di aver fatto anche un assegno del 66.000 euro al notaio Napoleoni. Non ho visto Zampolini consegnare altri assegni. E poi, insomma, racconta i lavori. E a un certo punto Scaiola racconta questa, che, cari ascoltatori, quasi peggio, no? Attenzione, inizio a fare i lavori. A un certo punto ho scoperto che c'erano due condoni mai conclusi e la casa non aveva l'abitabilità. Ho dovuto provvedere a regolarizzare, quindi inserire anche la vicenda dei due condoni a mia insaputa. E poi, quando arriva la domanda chiave del pubblico ministero al magistrato, che gli chiede: scusi, ma perché Anemone, il costruttore Anemone, avrebbe pagato la differenza saldando parte della sua casa? L'ex ministro Scaiola allarga le braccia e risponde così: me lo chiedo dal 23 aprile del 2010. E sono 3 anni che Scaiola, 3 anni abbondanti, dice: mi sto chiedendo perché diavolo abbia comprato una parte, abbia saldato una parte della mia casa. Una casa che, come raccontano tutti i giornali, ora Scaiola si lamenta, non riesco a vendere. Nessuno la vuole. Appena vengono a sapere di che casa si tratta, quella vicino al Colosseo, scappano via. E quindi io avevo promesso di venderla, non ci abito più, ma non riesco a venderla. Viva e viva! Torna una vicenda che ha letteralmente fagocitato l'attenzione all'epoca, la vicenda della casa a sua insaputa, anche se lui non lo ha mai detto, Scaiola sui giornali. Io vorrei segnalare ciò che invece a pagina 23 del Corriere della Sera viene posto come un problema che riguarda i nostri straordinari beni culturali, il nostro patrimonio culturale, uno dei più straordinari in Italia, anche se non siamo in grado di valorizzarlo a dovere. Paolo Conti racconta, pagina 23, è giusto finanziare Pompei con cene e feste di gala? È una problematica che era sorta anche con alcune cene, per esempio sul Ponte Vecchio di Firenze. Si era accusato anche il sindaco Matteo Renzi in qualche modo di mettere a disposizione per pochi spiccioli e di fare cassa con alcuni dei più prestigiosi monumenti o comunque dei siti più prestigiosi della città. Ebbene, racconta il Corriere, il caso più recente risale a pochi giorni fa, venerdì 27 settembre. Una gran cena organizzata per il 10° congresso del gruppo Agenti Fondiari Assai proprio nell'arena dell'anfiteatro di Pompei. Tende, tavolini, sedie, i supporti necessari per il catering, il tutto per 15.000 euro versati nelle casse della soprintendenza. Serata indimenticabile sotto le stelle, non solo per i partecipanti, ma anche per la soprintendente Teresa Elena 54. Tutto è finito però su youreporter.it e via Twitter sul telefonino del ministro per i beni culturali Massimo Brai. E allora ecco che nasce la polemica e il dibattito. Scrive il Corriere: l'affitto dei beni culturali italiani per cene, manifestazioni, visite guidate riservate a grandi società, semplici privati, ormai un'abitudine consolidata. Le tariffe sono note. Per affittare una sera alloggiato di Brera con apertura della galleria d'arte si va dai 3 ai 5 mila euro, più le spese del personale, ovviamente il 30-40% di 30-40 euro per ogni ora straordinaria di un custode. A Roma Palazzo Barberini costa dai 6 ai 20 mila euro, dipende dallo spazio che volete richiedere. La Reggia di Capodimonte naviga sui 20 mila euro. Un cocktail a Palazzo Pitti non si organizza con meno di 7 mila euro. D'estate il Tempio di Segesta si può noleggiare, ovviamente tra virgolette, con 5.000 euro. A Parma una serata nella meravigliosa Biblioteca Palatina assicura le casse circa 7.000 euro. A tutto questo il privato ovviamente deve aggiungere le spese per il catering, per la cena. Però il dibattito è aperto, è giusto capitalizzare e fare cassa con i beni culturali così? Magari laddove i beni culturali invece non si riesce a valorizzarli in altro modo, per esempio, scrive sempre il Corriere, la sovrintendenza di Pompei si è ritrovata stretta tra errori di fondo, in certi casi scelte senza senso, tagli al bilancio. Ed ecco allora che si ricorre a queste situazioni, ma chiaramente il dibattito viene rilanciato dal Corriere della Sera con questo titolo a pagina 23: è giusto finanziare Pompei con cene e feste di gala? Oh, prima di lasciarvi a tre minuti di pubblicità, vi voglio citare anche una vicenda che spesso è scomparsa dai giornali, oggi riappare in una mezza pagina di Repubblica. È la vicenda giudiziaria dei nostri due Marò che si trovano in India con l'accusa di aver sparato e ucciso due pescatori. Questo perché Repubblica fa notare che ieri il ministro agli esteri Emma Bonino, nella sua pagina Facebook, o meglio nella pagina Facebook dedicata alla vicenda, non è la pagina Facebook personale del ministro Bonino, ma della vicenda relativa ai due Marò, ha postato una frase che in qualche modo per la prima volta ha rotto il muro sulla visione innocentista, che è la più diffusa, dei due Marò. La frase del ministro Emma Bonino è questa: non è accertata la colpevolezza e non è accertata l'innocenza. I processi servono a questo. Racconta Repubblica, pagina 19, questa affermazione apparentemente banale, quasi dovuta, dello staff del ministro degli esteri Emma Bonino scatena su internet una piccola tempesta sul caso dei due Marò, perché sulla pagina di Facebook aperta per ospitare pareri e commenti sulla vicenda che ha coinvolto i due italiani, La Torre e Girone, arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani, la Bonino in qualche modo rompe il fronte dell'innocentismo a tutti i costi che il governo italiano ha seguito fino a oggi. Una linea solo apparente, perché nei fatti tre ministeri maggiormente coinvolti, cioè Presidenza del Consiglio, Esteri e Difesa, riservatamente conoscono le prove contro i due Marò e ammettono che una condanna da parte dei giudici indiani è possibile. Questo è un altro aspetto interessante, cioè in via riservata sia la Farnesina, il ministro degli esteri, sia la difesa ammettono una condanna effettivamente è possibile. Comunque questa frase ha fatto arrabbiare anche alcuni su internet. Questa frase dello staff di Emma Bonino: non è accertata l'innocenza dei due Marò. È diciamo una svolta lessicale, svolte dal punto di vista procedurale, dal punto di vista processuale non ce ne sono, perché per il momento ormai sono un anno abbondante, adesso ho perso il calcolo, ma sono davvero tanti mesi che i due Marò sono lì in India nell'incertezza, anche nella mancanza di un giudizio definitivo, colpevoli o innocenti per questa vicenda. Va bene, ci fermiamo 3 minuti e 30 secondi e poi riprendiamo e ripartiamo da che cosa? Beh, dalla galoppata di articoli di giornali dedicati alla situazione politica alla vigilia domani del voto presumibilmente di fiducia che chiederà il premier Enrico Letta al Senato. 24 mattino. E allora eccoci qua alle 7:32 minuti. Allora, mentre la politica si interroga, e sono tante le pagine che tra poco leggeremo dedicate a quello che succederà da qui a domani e quello che è successo da qui all'altro ieri, evidentemente con scene anche, raccontano i giornali, di resa dei conti, soprattutto all'interno del Popolo della Libertà, una certezza, quella che tutti gli italiani possono dire: sì, questa cosa è certa, sicura. E ci sta anche un po' sulle palle che oggi è aumentata l'IVA. Questo è l'unica cosa certa dalla quale non potete scampare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Aliquota IVA al 22%, ci sono le istruzioni per l'uso con tutti gli speciali sul Sole 24 Ore. L'aumento dell'IVA, ciò che vuol dire per consumatori, imprese e professionisti, raccontano Maurizio Caprino e Marco Peruzzi sul Sole. Dunque si parte, come se fosse un bel viaggio, ma in realtà è una cosa veramente negativa. Il rincaro dell'IVA con l'aliquota ordinaria portata dal 21 al 22% è scattato dalla mezzanotte scorsa, portandosi dietro i problemi di sempre: gestione contabile, calo dei consumi, ma aggiungendo stavolta l'effetto sorpresa, perché molti operatori si erano fidati degli annunci sul congelamento del rincaro. Invece questi annunci non ci sono stati, complice ovviamente una situazione politica che è degenerata nelle ultime 48 ore. E dunque questo è. cosa significa, i prodotti che aumentano, dal caffè all'auto e l'effetto fisco. Fa sapere l'Agenzia delle Entrate, fanno sapere sul Sole 24 Ore che l'Agenzia delle Entrate ha reso noto alla vigilia dell'aumento al 22%, gli eventuali errori nelle fatture e scontrini potranno essere corretti senza sanzioni. Vabbè, che gran bella soddisfazione! Se fate degli errori perché non siete adeguati magari ancora al sistema, l'Agenzia delle Entrate non vi chiede pure i soldi. E beh, il titolo di Libero è abbastanza efficace: IVA al 22%, i partiti litigano, noi paghiamo. Sarà anche un po' populista, ma molto efficace. Tante volte la demagogia e il populismo sono sinonimo di piccole banali verità. Loro litigano e noi paghiamo. E a proposito dei litigi, non bastava la situazione di difficoltà, soprattutto all'interno del Popolo della Libertà. Ieri ci si è messa anche un'intercettazione finita in onda a Piazza Pulita. Ieri sera, cioè, che cosa è successo? In pratica Berlusconi ha telefonato a un deputato che non viene citato. In quel momento le versioni divergono. Secondo Libero, il giornalista di Piazza Pulita ha origliato letteralmente la telefonata, l'ha registrata e l'ha mandata in onda. Secondo invece le versioni di Piazza Pulita, questo deputato ha messo in viva voce Berlusconi perché c'era un po' di chiasso per sentire meglio. Sta di fatto che è stata registrata la voce di Berlusconi e in questa telefonata Berlusconi dice a questo deputato del Popolo della Libertà: non riesce ad avere nessuna informazione su quello che è successo alla sezione civile della Cassazione per il lodo De Benedetti, perché mi è stato detto che il capo dello Stato avrebbe telefonato per avere la sentenza prima che venisse pubblicata. Ovviamente questa frase, che è sicuramente una frase privata che Berlusconi dice al telefono con questo deputato, è una telefonata che diventa pubblica nel momento in cui Piazza Pulita la fa sapere all'Italia. Berlusconi attacca Napolitano, questo è il titolo per esempio del Sole 24 Ore, pagina 6, con Marco Ludovico. Ovviamente c'è subito la sdegnata replica del Quirinale, con anche il Secolo XIX che fa questo titolo: Berlusconi veleni su Napolitano, pagina 4, ha fatto pressioni sui giudici contro di me sul caso Mondadori. La replica dell'ufficio stampa del Quirinale: ciò che ha riferito Berlusconi è un'altra volgare e delirante invenzione diffamatoria. Cari italiani, il clima anche tra rapporti istituzionali è questo. Per il Giornale, la telefonata rubata al CAV e i sospetti su Napolitano, Piazza Pulita, scippo per la verità, scippo compiuto, così inizia l'articolo di Gabriele Villa. Lo scippo di una telefonata di Berlusconi, sottratta con allegra violazione della privacy del Cavaliere, inopinatamente registrata, puntualmente mandata in onda ieri sera per conquistare qualche virgola in più di audience nella trasmissione di Formigli sulla 7, nel corso della quale è stato reso pubblico l'audio integrale, nonostante l'avvocato Ghedini, avvocato di Berlusconi, avesse detto: procederemo in tutte le sedi giudiziarie per vietare la pubblicazione di tutto questo. Non è stata vietata, è finita in onda e alè, polemiche su polemiche, come ho detto, come se non ce ne fossero già abbastanza. Tutti i giornali raccontano che c'è una resa dei conti abbastanza forte all'interno del PDL con la riunione che ieri Berlusconi ha tenuto. Si è presentato con gli occhiali da sole, soprattutto Dudù in braccio, no? Ci sono questi fotogrammi. Dudù tre giorni fa ha fatto anche un editoriale sul Giornale, mi risulta, ha iniziato una collaborazione sul Giornale, cioè ha scritto un articolo sul Giornale, Dudù. Insomma, come dico io spesso su Twitter, boccaccia mia, stati zitta, andiamo avanti. Al di là di presentarsi con Dudù, è quello che è successo dopo: ultimatum, annunci, qualche dubbio, le mosse del Cavaliere per blindare il Popolo della Libertà, racconta il Corriere della Sera. Questo è il titolo a pagina 5. C'è un Berlusconi che sostanzialmente ha detto: forse ho fatto un errore, ha ammesso, accelerando in maniera così drammatica la crisi, ma il governo Letta per noi è finito. Possiamo votare il 24 novembre, se siamo uniti ce la facciamo. Ecco, in quel "se siamo uniti", perché come racconta Fabrizio Roncone, che è uno straordinario narratore di quelli che sono i cosiddetti retroscena di quello che accade dietro le quinte della politica in maniera ufficiale. Ebbene, Fabrizio Roncone a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera racconta di queste retroscena della riunione all'interno del Popolo della Libertà. Intanto una riunione nella quale, scrive il Corriere, non c'è stato alcun dibattito. A un certo punto Cicchitto ha alzato la mano perché voleva dire la sua, ed eccolo qua il titolo: alza la mano Cicchitto e il dibattito, e il capo lo blocca così: se vuoi parlare vieni a cena stasera da me. E racconta Roncone la mano destra di Fabrizio Cicchitto alzata, qualcuno se ne accorge, certi si voltano con aria interrogativa, lui ha un sorriso bloccato, un po' impertinente, un po' di sfida, la mano ostentatamente sempre alta, come uno scolaretto. No, scusate, ma non c'è dibattito? Chiede Cicchitto, perché io veramente vorrei dire che... Brunetta fa segno di no, nervosamente, secco. No, no, no, non esiste. Schifani mette su uno sguardo di circostanza. Dai, Fabrizio, non è il momento. Berlusconi allora intuisce, con quel suo istinto pazzesco, rapace, interviene subito e dice: Fabrizio, avevamo deciso che avrei parlato solo io, ma se vuoi dirmi qualcosa, forza, vieni a cena da me, stasera. Ecco, questo è il massimo del dibattito, secondo Fabrizio Roncone, concesso ieri nella riunione, poi continua ovviamente il resoconto, si parla di una Santanchè di solito tagliente, spavalda e polemica, che dice: è stato un discorso stupendo, siamo tutti uniti. L'avvocato Ghedini, uscendo, dice: è andato tutto bene, davvero proprio bene, bene. Ma non crede che le ho detto che è andata bene, bene, ora mi scusi, ho fretta, e se n'è andato via. Insomma, la verità, raccontano sempre dei retroscena, quindi chissà se sia la verità o meno, ma la raccontano un po' vari giornali, che ci sia stato un vero faccia a faccia molto duro tra Alfano e Berlusconi. Il Messaggero titola pagina così, pagina 3. Scontro nella notte con Alfano, riprende quota l'ipotesi scissione, e anche il quotidiano Repubblica mette il PDL a un passo dalla scissione, Berlusconi tenta l'ultima mediazione, e il retroscena di Carmelo Lo Papa. Libero mette i falchi, i mediatori, le colombe. I falchi sono Verdini, Santanchè, Capezzone, Ghedini e Bondi. I mediatori sono Cicchitto, Brunetta, Gelmini, Matteoli e Gasparri. Le colombe: Alfano, Quagliari, Lorenzin, De Girolamo, Lupi. Si narra anche su un giornale, sempre il Messaggero, di lacrime isteriche del ministro Lorenzin, dimessasi come tutti, ma ieri in un'intervista al Corriere della Sera anche paragonato, dice: non voglio che il partito abbia una deriva stile Alba Dorata in Grecia. La Lorenzin, racconta Ettore Colombo sul Messaggero a pagina 3, raccontano voci malevole, era isterica e piangeva. Ma racconta lo stesso autore dell'articolo: ma magari non è neanche vero, è anche un momento in cui si spargono forse delle voci, perché da qui a domani può succedere di tutto. E al Senato per il giornale mancano 20 voti, 22, 23, allora state tenendo il pallottoliere, vi interessa? La gente, io lo so, entro nei bar, ci sono crocicchi alle strade, delle più grandi strade di Milano, con la gente che si ritrova e dice: allora 22, 23, 24 ce la fanno, 20, 22, nei bar tutti parlano di questo, no? Mica parlano di calcio, tutti parlano di questa cosa qui. Secondo Repubblica, Lupi e Mauro sono i registi della campagna per spiazzare Berlusconi al Senato. Dunque due ministri, uno Lupi del Popolo della Libertà, uno Mauro per la Verità e di Scelta Civica, sarebbero loro a cercare di convincere alcuni senatori a passare dalla parte, insomma, del sostegno al governo Letta. Un governo Letta, o meglio un premier Enrico Letta, che nel frattempo, racconta il Corriere della Sera a pagina 9 con Marco Galluzzo e Monica Guerzoni, ha l'atteggiamento del: sapete che c'è, domani o la va o la spacca. E questo è il titolo anche del Corriere: la partita di Letta, o la va o la spacca, sul bis, solo se c'è un'intesa seria e una fiducia forte. E vabbè, in tutto questo ovviamente c'è l'incertezza dei mercati, le borse che sono un po' in difficoltà. C'è Beppe Grillo che ieri è andato e si è presentato alla Rai con questa manifestazione Occupy Rai, dicendo Letta è andato da Fazio, ha raccontato anche delle falsità sulla vicenda del Porcellum, Grillo invade Viale Mazzini, invade ovviamente tra virgolette. C'è anche una polemica perché pensate che alla manifestazione c'era tra i parlamentari anche Roberto Fico, solo che Roberto Fico come ruolo ha il presidente della, è il presidente della commissione vigilanza Rai, cioè un authority che dovrebbe tutelare anche gli interessi della Rai, tanto che Repubblica va a intervistarlo con Annalisa Cuzzocrea a pagina 13 e Fico dice: dimettermi da presidente neanche per sogno, non abbiamo occupato proprio niente, Occupy Rai era solo il nome della manifestazione, dunque si difende così il presidente della commissione vigilanza Rai. Beh, ma lei è il presidente, era lì a manifestare. Vi ricordo che il capo del Viminale di allora, Alfano, insieme ad altri ministri, è andato sulle scale del Palazzo di Giustizia di Milano a protestare contro una sentenza che riguardava Silvio Berlusconi. Inviterei chi chiede che me ne vada a fare poche chiacchiere. Così, insomma, Roberto Fico respinge tutte le polemiche del caso. Vabbè, la politica è questa qui, non c'è solo la politica sui giornali, anche se come vedete abbonda, esonda, trasudano politica le pagine dei giornali, ma c'è anche cronaca, c'è anche altro, c'è anche il premio La Carta Costa, tra poco dopo il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci, eccoci. Allora, la notizia di cronaca principe, purtroppo è una notizia bruttissima di cronaca. Trovate, tante volte lo dico, le foto raccontano molto più di tanti articoli e le foto che trovate in prima pagina del drammatico sbarco di questi migranti, 13 dei quali sono morti annegati a pochi passi dalla spiaggia di Scicli in Sicilia. E beh, queste foto raccontano molto più di qualsiasi commento, di qualsiasi articolo. Le foto ritraggono queste persone allineati, i loro corpi con i teli che li coprono e i carabinieri tutto intorno. Il manifesto mette la foto in prima pagina, il titolo è Posto di blocco e in maniera molto drammatica e annegati a un passo dall'Europa è l'articolo all'interno a pagina 7, così come il Corriere della Sera fa due pagine. Certo, c'è il racconto anche del carabiniere italiano che ha salvato 7 vite, il maresciallo Floridia, e quindi per qualcuno è già diventato un eroe, soprattutto con il massaggio cardiaco che ha praticato per primo, ha aiutato a portare queste 7 persone a riva. 13 di loro invece non ce l'hanno fatta, sono morti a pochi metri dalla riva, pensate, costretti con le cinghiate a tuffarsi. Ora i resoconti dicono era un equipaggio nel quale c'era probabilmente un egiziano, raccontano loro, che a un certo punto li ha costretti appunto con cinghiate frustate a buttarsi a qualche metro, qualche decina, forse un centinaio di metri dalla riva, e ovviamente alcuni di loro non sapevano nuotare, sono annegati. Davvero sono impressionanti le foto a corredo degli articoli di cronaca. Anche Avvenire apre su questo e a pagina 3 c'è il titolo Buttati in mare dagli scafisti, 13 morti. Vabbè, siamo quasi in conclusione. Lo so, oggi scatenerò un vespaio di polemica, ma in mio insindacabile giudizio, ebbene sì, l'ho lasciata per ultimo, La carta costa, non fosse altro perché sono 5 pagine. Oggi va a Eugenio Scalfari su Repubblica. L'apertura di Repubblica e 5 pagine di intervista a Papa Francesco. Ma per carità, lo so, le polemiche, datemi addosso. Si parla di cose importanti. Già il titolo di questo colloquio è Il Papa, così cambierò la Chiesa. Però io dico, anche all'inizio Eugenio Scalfari che racconta, erano le 2:30 del pomeriggio, squilla il mio telefono e la voce alquanto agitata della mia segretaria dice: ho il Papa in linea, glielo posso passare immediatamente? Che poi chissà l'emozione, ormai il Papa telefona un po' a tutti. Comunque insomma, il Papa che telefona e Scalfari sconvolto, resto allibito. Buongiorno, sono Papa Francesco, gli risponde il Papa. Io sono sconvolto. Ma perché sconvolto? Dice il Papa. Telefona spesso. No, dice, perché sconvolto? Lei mi ha scritto una lettera chiedendo di conoscermi di persona ed eccomi qua. Allora, la mia... non sto scherzando, sto leggendo l'articolo. La mia agenda è questa. Lunedì non posso, mercoledì non posso, martedì le va bene? Sì, va bene. Allora, martedì ci vediamo alle 15 a Santa Marta. Deve entrare dalla porta del Sant'Uffizio. Ecco, inizia così l'articolo. Per carità, poi molto intenso, molto denso, molto pregno di cose importanti, cambierò la chiesa, ma insomma 5 pagine di Repubblica, a maggior ragione anche per la quantità di pagine, il premio, a mio insindacabile giudizio, va a Repubblica, è Eugenio Scalfari, attenzione, la carta costa e costa anche parecchio, amici di Repubblica, ricordatevelo, però insomma il dialogo merita anche di essere letto, ma insomma, prima di concludere, voglio salutare Mauro Meazza, lo ritroviamo qua, eccoci qua. Mauro, buongiorno, a te il Papa mai telefonato? Non ancora? Buongiorno, no, non ancora mi viene da dire. Gli passeremo il cellulare appena finita la trasmissione. Comunque, sul Sole 24 Ore cosa ci puoi segnalare oggi? Sul Sole 24 Ore, a parte l'IVA, di cui so che già hai detto agli ascoltatori, ci sono 4 pagine per spiegare l'aumento al 22%. Poi oggi è una giornata un po' che mi sento da percentuali, allora ti segnalo che sempre al 22% sta la morosità dei pagamenti delle rate di condominio, cioè che sta crescendo parecchio e lo raccontiamo nelle pagine di Norme e Tributi. Oggi ricordati o ricordatevi, dalle 15 si può fare presentare la domanda per avere il bonus assunzioni nuove dal 7 agosto, trovate tutte le istruzioni nella pagina 28 del Sole 24 Ore di oggi, l'INPS ha diramato queste istruzioni. Attenzione, ci sono non tantissimi soldi, quindi anche qui è importante arrivare per primi. E poi ti do un'ultima percentuale, 19%, anzi 19,4, non è l'aliquota IVA che verrà, ma è il tasso soglia per l'usura per il credito al consumo negli acquisti a rate. Cioè, attenzione, se fate un acquisto a rate, non è detto che la percentuale del 12, del 15, persino del 18% sia usuraria, anzi in questo momento dal 1 ottobre il tasso soglia per questo tipo di acquisti a rate è al 19,4, quindi attenzione, sono i nuovi valori, varranno per un trimestre, è lecito, è assolutamente lecito, così segnala il decreto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la comunicazione, pardon, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, attenzione a questi tassi soglia quando chiedete un prestito, e come vi dicevo prima, per le rate dei condomini che non pagano, ecco, può essere un'evenienza che capita sempre più di frequente. È certamente utile, e non è, come dici tu giustamente, l'IVA, visto che sarebbe già buona al 19,4%. Va bene, grazie a Mauro Meazza, e ricordatevi, amici di Repubblica, che la carta costa. Eugenio Scalfari, chiamatevi col Papa, chiamate, però 5 pagine su Repubblica, vabbè, il giornale radio.